Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, ben ritrovati. Sono stata latitante per un paio di settimane, ma eccomi qua. E oggi cominciamo gli argomenti, come ovviamente potete immaginare, sono tantissimi. Ci sarebbe la Turchia prima di tutto e ne parleremo, però visto che un altro tema della settimana è stato lo scandalo dei dati raccolti dall'amministrazione americana su tutti noi, su tutti gli americani, ma forse anche su tutti noi, vi segnalo un articolo di Financial Times uscito giovedì intitolato Bruxelles si inchina agli USA sulla protezione dei dati. Nel 2012, scrive Financial Times, l'amministrazione Obama, e questo naturalmente lo veniamo a sapere soltanto adesso, o comunque forse si sapeva, ma è giusto ricordarlo, ha convinto la Commissione europea a rivedere la sua legislazione sulla protezione dei dati e a cancellare una clausola che avrebbe impedito alle agenzie americane di intercettare conversazioni e scambi di mail internazionali. Quotidiano economico Financial Times sottolinea che la clausola avrebbe annullato tutte le richieste di Washington alle compagnie telefoniche e tecnologiche per la consegna dei dati sui cittadini UE. E il commissario europeo alla giustizia Viviane Reding aveva sconsigliato di cancellare la misura, ma la maggior parte degli altri commissari pensava che andasse rimossa dalla legislazione perché avrebbe avuto uno scarso peso legale e avrebbe irritato gli Stati Uniti, alleato fondamentale dell'Europa. Quindi adesso sappiamo che appunto lo scandalo è scoppiato negli Stati Uniti, ma tutto sommato un pochino ci riguarda, ed è perché appunto la Commissione europea ha preso una di quelle decisioni un po' discutibili. Passiamo a un altro paese, un altro tipo di quotidiano che purtroppo non possiamo leggere in lingua originale, ed è un quotidiano della Romania che si chiama Timpul, e qui il tema è il fatto che sarebbe più vicino un accordo di libero scambio tra la Moldavia e l'Unione Europea. Sarebbe il 12 giugno, infatti, quindi proprio in questi giorni, è stato finalizzato il negoziato sull'accordo del quotidiano di libero scambio. È una buona notizia perché sono trattative quelle sul libero scambio, la Cina ci insegna, ma anche con tanti altri paesi, che sono sempre minacciate dall'instabilità politica, e l'instabilità politica è infatti una delle caratteristiche della Moldavia, che però è anche candidata all'adesione all'Unione Europea. E quindi è un primo successo, scrive questo quotidiano romeno, del nuovo esecutivo pro-europeo di Jure Leancia. E secondo il quotidiano, questo accordo che apre appunto sapete che questi accordi sono sempre molto complessi, vanno per piccoli passi, però questo primo accordo sarà sancito durante il vertice del partenariato orientale che si terrà a novembre a Vilnius in Lituania, mentre probabilmente la firma arriverà nel corso del 2014, quindi appunto un processo lungo, ma che finché non inizia non può neanche andare avanti. Quindi comunque una buona notizia, il libero scambio è sempre una buona notizia. Sappiamo quante guerre, speriamo non guerre vere, ma sicuramente guerre commerciali, hanno innescato questi squilibri tra scambi di merci tra i paesi. E poi veniamo appunto alla questione della Turchia, perché la Frankfurter Allgemeine Zeitung, sapete, la Germania è il paese che in assoluto ha accolto negli anni il maggior numero di immigrati dalla Turchia, e quindi è sempre particolarmente attenta ai temi della Turchia e naturalmente quindi a tutto quello che sta succedendo dal 31 maggio a Istanbul. La Frankfurter Allgemeine Zeitung ha titolato in questi 2 giorni fa su il ministro degli esteri tedesco Guido Westerwelle, che ha detto che c'è un rischio per i negoziati di adesione alla Turchia. Sapete che anche questo è un negoziato, per l'appunto, che va avanti da tanto tempo. Secondo alcuni, l'adesione dell'Unione Europea alla Turchia sarebbe un enorme passo avanti per incorporare, per dialogare anche con quell'Islam moderato, che però purtroppo forse in Turchia, ci stiamo accorgendo, tanto moderato non è, perché secondo molti, questo lo dico io, non lo scrive la Faz ma lo hanno scritto tanti altri giornali, le proteste che ci sono a Istanbul non sono tanto legate a quella questione specifica del parco e degli alberi che devono essere distrutti, ma a tutta una serie di misure che l'esecutivo Erdogan ha preso e che rendono sempre più pressante la presenza, l'influenza della componente religiosa nella vita sociale e politica della Turchia. Vi segnalo, a questo punto mi collego con un articolo uscito sul quotidiano Taraf, un quotidiano turco, dove appunto intitolato Erdogan non ha imparato la lezione. Secondo questo quotidiano, il primo ministro non ha capito che le persone provenienti da tutte le frange della società sono scese in strada per dire non vogliamo che ci venga imposto come vivere. E ripeto, non è una questione di alberi, o comunque non solo una questione di alberi. Vi segnalo un altro articolo della Faz. Questa volta è un tema che avete visto anche sui giornali italiani, anche alla radio, nei servizi della radio di questa settimana, ma appunto ha avuto tanto spazio sui quotidiani tedeschi. E il tema è quello della Corte Costituzionale tedesca che ha cominciato a esaminare la validità del programma di riacquisto di bond lanciato da Mario Draghi. Anzi, forse mi è rimasto impresso, ne ha parlato anche una trasmissione di Radio 24 Focus Economia proprio mercoledì. E scrive la Faz che ancora una volta l'Unione Europea, in un certo senso, almeno all'apparenza, è nelle mani dei giudici tedeschi. Holger Stelzner, che è appunto un analista della Faz, scrive: l'intervento della Corte di Karlsruhe, perché è a Karlsruhe che ha sede la Corte Costituzionale tedesca, riguarda il riacquisto da parte della BCE delle obbligazioni dei paesi indebitati della zona euro, quindi quella misura salva stati che è stata fortemente voluta e che finalmente poi è stata introdotta dal presidente della BCE Mario Draghi. Vedremo insomma quanto peso avrà questa decisione della Corte Costituzionale tedesca e come sempre torniamo al tema di cui ci siamo spesso occupati in questa rassegna, che è quello dell'autonomia delle istituzioni dell'Unione Europea. Cioè finché su alcuni temi da una parte sembreranno agire in totale autonomia e sappiamo il Parlamento Europeo, il famoso Parlamento, l'unico Parlamento Europeo al mondo che non legifera o che comunque che fa molte leggi ma che poi non sono direttamente recepite dagli ordinamenti nazionali, quindi da una parte questo distacco, questa poca scarsa rappresentanza delle istituzioni europee, dei cittadini europei e dall'altra il fatto che poi le decisioni delle istituzioni europee spesso non vengono alle decisioni delle istituzioni europee non viene dato il giusto peso dai paesi membri che su certi temi vogliono fare da sé. Passiamo alla Tribune, un quotidiano francese. In questo caso il tema è di un'altra guerra commerciale. Abbiamo parlato prima del negoziato che potrebbe avvicinare la Moldavia all'Unione Europea. Bene, qui invece ci sono minacce di guerra commerciale tra l'Europa e la Cina. Diciamo che il pretesto è stato un po' il fotovoltaico, ma ci sono tantissimi prodotti su cui la Cina ha accusato l'Unione Europea di dumping o singoli paesi dell'Unione Europea di dumping e noi abbiamo accusato la Cina di dumping. Qui, come sapete, la questione è quella dei pannelli fotovoltaici, perché l'Unione Europea ha annunciato di voler presentare un esposto contro la Cina al WTO in merito alle tasse imposte da Pechino sui tubi di acciaio inossidabile. Secondo la Tribune, la denuncia costituisce una seconda tappa della controversia commerciale che oppone l'Unione Europea alla Cina dopo le minacce di sanzioni sul fotovoltaico cinese da parte di Bruxelles e quelle sul vino francese, le auto tedesche avanzate da Pechino, che insomma appunto ogni giorno sembra che tutto a un tratto uno si alza e nota che in Cina ci sono soltanto auto tedesche e quindi poi se si guarda il bigger picture, come dicono gli inglesi, si scopre che in realtà appunto sono questioni che sono tutte un po' irrisolte, poi a un certo punto con un pretesto vengono riaperte con magari grande forza, grande anche violenza se vogliamo, perché è chiaro che minacciare ritorsioni commerciali quando uno dei due partner è la Cina vuol dire avere delle conseguenze enormi per una quantità enorme di imprese, in questo caso europee. Ma proprio parlando di auto, sappiamo quanto è doloroso il tasto del settore automotive per l'Italia e per l'Europa. Der Spiegel, che è un settimanale tedesco, sottolinea appunto come il 2012 sia stato un anno tremendo per i costruttori europei e che il 2013 rischia di essere un altro anno terribile per i costruttori di automobili. C'è stato uno studio pubblicato dall'Università di Duisburg-Essen, che è nella Ruhr, quindi il cuore manufatturiero tedesco e dell'industria dell'automobile. Secondo il rapporto, nei paesi dell'Europa occidentale quest'anno le vendite potrebbero calare del 5% rispetto al 2012 e già nel 2012 erano calate. Nei 27 stati dell'Unione, nella zona di libero scambio europeo, le vetture vendute potrebbero essere soltanto 11, soltanto tra virgolette, 11,9 milioni. E questo renderebbe il 2013, scrive Der Spiegel, l'anno peggiore negli ultimi 30 anni dell'industria automobilistica europea. Naturalmente non c'è soltanto la Germania che verrebbe colpita da questo, ma lo sappiamo bene, Francia, Spagna, Portogallo, dove la produzione potrebbe scendere del 58%, ma il dato peggiore è quello dell'Italia. Per Purtroppo non abbiamo tempo per altre segnalazioni, anche se ce ne sarebbero tante altre. Alcune di queste potete ritrovarle sul nostro sito e poi noi ci risentiamo sabato prossimo. A tutti un buon sabato e una buona domenica da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.